Allora, la scienza che studia i mutamenti del clima, ne abbiamo accennato prima della pubblicità, compie 150 anni. Prima vuol dire per secoli, lo studio, usiamo questo termine, del tempo era affidato a che cosa? Alla magia, alle tradizioni popolari, ai proverbi. Oggi è uno dei temi che più appassiona l'opinione pubblica e dopo i signori del tempo aumentano le ragazze delle nuvole. Per prime, naturalmente, per quanto riguarda l'Italia, le ragazze meteo, le miss meteo delle TG4. Variabile in Sicilia, vediamo le previsioni per venerdì 25 maggio. Bella mattinata a Palermo, dove splenderà il sole fino al pomeriggio, quando qualche nuvola potrebbe coprire il cielo. Qualche nuvola in più a Messina, dove comunque la prima parte della giornata sarà primaverile. Ottime condizioni meteo su Catania e le province di Ragusa e Siracusa. Bella giornata anche a Trapani, dove si calmerà anche il mare che nei giorni scorsi era stato un po' agitato. Poche nuvole e tanto sole anche nelle province di Agrigento, Caltanissetta. Temperature primaverili, con le minime che saranno comprese tra gli 8 e i 12 gradi e le massime tra i 14 e i 20 gradi. Tutti i calmi mari attorno alla Sicilia, venti deboli, soffieranno da sud-ovest. Domani il sole sorgerà alle 6:06, tramonterà alle 18:03 e festeggerà l'annunciazione del Signore. Grazie per l'ascolto e buona continuazione da Alicia Lani. Così inizia a farmi proposte, inviti a cena. All'inizio sono un po' su chi va là perché dico: non è che adesso il direttore che mi ha messo su tutti i giornali, mi chiede di fare la meteorina, faccio tutti i provini, mi vuole fare le proposte. Proposte di che natura? Proposte sessuali. È una sensazione che mi ha dato dalle domande che lui mi faceva. Andiamo a fare un weekend a Forte dei Marmi? Perché lo stai chiedendo a me? Perché a fare un weekend a Forte dei Marmi? Cioè, hai sentito che c'era un prezzo da pagare? Era una mia sensazione. Io andavo a questi inviti e io lo sentivo sempre più freddo e quindi mi ho iniziato a dire: sai, hai bisogno di altri provini. Ma come? Una settimana prima della messa in onda bisogna 10 provini. Io non sapevo come dire a miei genitori, quelli erano lì che compravano tutti i giornali, erano pronti col telecomando alla mano: che bello lunedì c'è mia figlia, che bello lunedì c'è mia figlia. E lui mi dice, arriviamo a un punto che lui mi dice: guarda, mi dispiace, io lunedì non ti posso mandare in onda perché non sei ancora pronta, devi fare 10 provini ancora, e io glieli faccio quando vuole questi 10 provini. No, mi dispiace, adesso non ho tempo, vediamo quando ho tempo. Vabbè, in sostanza mi manda un altro messaggio: mi dispiace, non ti posso mettere in onda perché io e te non abbiamo dialogo.